siamo? Amen. Possiamo accomodarci? Pastore, stavo pensando che per il mio 25esimo anniversario dobbiamo trovare una location sulla spiaggia. Mi devo rifare del matrimonio, capito? Fantastico. Aspetta che aiuto io. Oggi mi improvviso, non ti preoccupare. Vai, vai, vai, esci. Sapete, è una gioia per me oggi. Non sapevo, cioè quando abbiamo organizzato tutto quanto, non sapevo che ci fosse l'anniversario di matrimonio. Sono così felice oggi di potervi raccontare quello che Gesù ha messo nel mio cuore. E sono emozionato come se fosse un anniversario di matrimonio. Perché il titolo del messaggio di oggi è La più grande storia mai raccontata. E sapete, noi possiamo essere parte, essere inglobati in una storia così grande che mai è stata raccontata, che è una storia straordinaria. C'è qualcosa che non va mentre parlo? No. Tutto a posto? Mi sentite bene? E questa storia, voglio iniziare a raccontarvela, parte da Dio. Abbiamo Dio che è Padre, che è Figlio e che è Spirito Santo. E uno, sono tre, non si capisce bene, le nostre rotelle del cervello si incriccano mentre pensiamo che è uno ed è tre, però è così. E Dio Padre, Figlio e Spirito Santo crea noi e ci crea maschio e femmina a sua immagine e somiglianza. E ci crea per avere una relazione con noi, ci crea per stare con noi, per parlare con noi, per vivere con noi. Che cosa accade però? Che a un certo punto noi decidiamo di sapere meglio di Dio che cosa è il bene e che cosa è il male. Non è che abbiamo mangiato la mela ed è la mela del peccato. Quella mela rappresentava la conoscenza del bene e del male. E noi abbiamo detto a Dio, noi non vogliamo fidarci di te. Noi non vogliamo affidarci a te per sapere quello che è giusto e quello che non è giusto. Siamo noi indipendenti nel sapere qual è il bene e il male. Seguite? Ci siete con me? Quindi che cosa è successo? Questa separazione che noi abbiamo creato con Dio ci ha portato lontano da Lui. Che cos'è il peccato? È la nostra indipendenza, è la nostra ribellione, è la nostra disubbidienza che ha creato una separazione tra noi e Dio. E da quel momento in cui noi abbiamo deciso che non ne volevamo sapere più niente di Lui, Lui ha iniziato in maniera disperata a cercare di trovare una soluzione per ritornare da noi. E si è fermato il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo e hanno chiamato Abramo. Hanno guardato su tutti i popoli della terra in Genesi e hanno scelto Abramo, l'hanno eletto. E hanno detto ad Abramo, Abramo in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Attraverso di te noi costituiremo un popolo e questo popolo sarà il nostro popolo, sarà il mio popolo, il popolo di Dio, il popolo al quale io darò dei comandamenti, darò delle istruzioni perché questo popolo sarà l'esempio davanti a tutti gli altri popoli di che cosa significa che voi siete figli miei, che voi mi appartenete, che io vi ho creato. E quindi da Mosè una serie di leggi e crea un popolo, il popolo di Israele, e dal Vecchio Testamento noi leggiamo in tutti i profeti e nei salmi, in Davide, Isaia, Geremia, Osea, e potrei elencarli tutti, una promessa. La promessa di un Messia che sarebbe venuto e avrebbe salvato tutti quanti e avrebbe riportato un nuovo regno qui su questa terra. Che cosa succede? Lo abbiamo cantato. Lasciò la sua corona in cielo per trovare me. Lasciò il suo trono in cielo per venire a incontrare me. E quindi il Figlio ha lasciato il suo trono nel cielo ed è sceso su questa terra, Gesù. E Gesù è morto e si è sacrificato perché il prezzo di questa disubbidienza doveva essere pagato. E qualcuno doveva farlo. E Gesù lo ha fatto una volta e per sempre. Non si è solo sacrificato sconfiggendo la morte e vincendola, ma è risorto. È ritornato al Padre e si è seduto alla destra del trono di Dio. E che cosa è successo? Lo Spirito Santo è sceso e ha riempito ogni persona che credeva in Gesù. E quando lo Spirito Santo è sceso in Atti 2, ha riempito ogni fedele che era lì riunito, la Chiesa si è costituita. La Chiesa è nata, una Chiesa fatta di tutti i popoli. Non c'era più solo un popolo, ma erano tutti popoli. Erano giudei, erano gentili, e tutto questo lo abbiamo letto e visto nella lettura che abbiamo fatto del libro degli Atti, vi ricordate? Fino ad arrivare a noi. Sapete, questo, quello che vi ho appena spiegato, ci parla di una missione che Dio ha a cuore, che Dio ha iniziato, che Dio ha attuato per raggiungere il nostro mondo che è rotto dal peccato, è rotto dall'odio, è rotto dall'egoismo, è rotto dalla disubbidienza, è rotto dalla ribellione. Ma lui aveva un piano di salvezza che è partito con Abramo, è passato attraverso il popolo di Israele, ha avuto il suo compimento in Gesù Cristo e oggi vuole continuare con me e con te. Sapete, Gesù ti sta chiamando ad entrare a far parte di questo grandioso, glorioso piano di salvezza. Gesù sta chiamando te perché c'è un noi. Gesù ti sta chiamando perché c'è un noi che tu devi abbracciare, perché attraverso quel noi, che è la Chiesa, che è quello che lui vuole fare attraverso di ognuno di noi insieme, c'è il compimento della sua missione per salvare il nostro mondo. Sapete, è un strabiliante, enorme piano di salvezza, è una storia così grande che è la più grande storia che si possa mai raccontare. È la più grande storia. Che ce ne dobbiamo fare degli Avengers e di Star Wars? È la più grande storia mai raccontata. E sapete qual è la cosa straordinaria di questa più grande storia mai raccontata che mi dà passione? È che il mio piccolo tassello della storia della mia vita, incastrato nei piccoli tasselli delle storie, delle vite delle persone che da millenni sono entrati a far parte di questo piano, dà valore e dà dignità e costruisce quel piano straordinario che Gesù vuole attuare attraverso di noi. Non è straordinario, non è grandioso. Se c'è qualcosa che nel mio cuore Gesù ha messo per te oggi da portarti a casa, è che tu possa sapere che la tua vita non è iniziata quando sei nato e non finirà quando morirai. La tua vita è molto di più di tutto questo, perché Gesù ti ha pensato da eternità passate, questa storia è iniziata molto prima che io e te potessimo entrarvi a farne parte e questa storia continuerà ancora per molto altro tempo, quando io e te non ci saremo più e fino a quando Gesù ritornerà. E dall'eternità Gesù ha pensato a te. E ti ha pensato perché c'è un noi al quale tu puoi scegliere di appartenere. Ed è quello che Michele e Donatella hanno fatto. E sapete, non è facile scegliere di appartenere ad un noi. Però questa storia e questo messaggio che vi ho riassunto qui era quello che in un qualche modo l'Apostolo Paolo voleva spiegare agli anziani della chiesa di Efeso, invitandoli a Mileto nel capitolo 20 degli Atti degli Apostoli, dal verso 17. Siamo rimasti al capitolo 20, lo so che abbiamo finito e che stiamo leggendo Neemia, ok? Però nel nostro impacchettare, spacchettare Atti, siamo al capitolo 20 e lo leggiamo subito insieme. Ci siete? Siete con me? È stato chiaro? Era facile? Sono riuscito a spiegarlo? Fantastico. Leggiamo dal verso 17. Da Mileto, e Paolo che sta, diciamo, che fa questa azione, che compie questa azione, Paolo da Mileto mandò a Efeso a chiamare gli anziani della chiesa. Quando giunsero da lui, disse lui loro: voi sapete in quale maniera dal primo giorno che giunsi in Asia mi sono sempre comportato con voi. Ascoltate ora, servendo il Signore con ogni umiltà e con lacrime, tra le prove venutemi dalle insidie dei giudei. E come non vi ho nascosto nessuna delle cose che vi erano utili e ve le ho annunziate e insegnate in pubblico e nelle vostre case. Perché noi viviamo i gruppi familiari? Perché ci piace e in settimana non abbiamo niente da fare, che vogliamo fare un'altra cosa per riempire il nostro tempo? Quanti hanno tempo da riempire? Nessuno, credo. Perché la Bibbia ci mostra questo. Perché anche Paolo lo raccomanda. Perché lui lo faceva. E abbiamo visto nel capitolo 19 che cosa, che opere potenti lo Spirito Santo ha fatto attraverso la Chiesa nella città di Efeso. È per questo che noi facciamo quello che facciamo. E ho avvertito solennemente giudei e greci di ravvedersi davanti a Dio e di credere nel Signore nostro Gesù Cristo. Ed ecco, ora legato dallo Spirito, vado a Gerusalemme, senza sapere le cose che mi accadranno lì. So soltanto che lo Spirito Santo in ogni città mi attesta che mi attendono catene e tribolazioni. Bellissimo il verso 24. Ma non faccio nessun conto della mia vita come se fosse preziosa, pur di condurre a termine con gioia la mia corsa e il servizio affidatomi dal Signore Gesù, cioè di testimoniare del Vangelo, della grazia di Dio. E ora ecco, io so che tutti voi, fra i quali sono passato predicando il Regno, non vedrete più la mia faccia. Perciò io dichiaro quest'oggi di essere puro del sangue di tutti, perché non mi sono tirato indietro dall'annunziarvi tutto il consiglio di Dio. Badate a voi stessi e a tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi per pascere la Chiesa di Dio che Egli ha acquistata con il proprio sangue. Lo so che dopo la mia partenza si introdurrà, io so che dopo la mia partenza si introdurranno tra di voi lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge. E anche tra voi stessi sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse per trascinarsi dietro i discepoli. Perciò vegliate, ricordandovi che per 3 anni, notte e giorno, non ho cessato di ammonire ciascuno con lacrime. E ora vi affido a Dio e alla parola della sua grazia, la quale può edificarvi e darvi l'eredità di tutti i santificati. Questa parola qui, che il pastore ci sta portando attraverso Parlami, a leggere ogni giorno con un capitolo, ha il potere di edificarci e di farci comprendere che c'è un'eredità eterna. C'è un'eredità eterna riservata per noi. Non ho desiderato né l'argento, né l'oro, né i vestiti di nessuno. Voi stessi sapete che queste mani hanno provveduto ai bisogni miei e di coloro che erano con me. In ogni cosa vi ho mostrato che bisogna venire in aiuto ai deboli lavorando così e ricordarsi delle parole del Signore Gesù, il quale disse egli stesso: vi è più gioia nel dare che nel ricevere. Quando ebbe dette queste cose, si pose in ginocchio e pregò con tutti loro. Tutti scoppiarono in un gran pianto e si gettarono al collo di Paolo e lo baciarono, dolenti soprattutto perché aveva detto loro che non avrebbe più rivisto la sua faccia, e l'accompagnarono alla nave. Fantastico questo passaggio, questo quasi da parte di Paolo mettere un sottolineare con l'evidenziatore tutto quello che era stato fino ad ora, per far capire agli anziani e alla chiesa di Efeso quello che era accaduto e quello che sarebbe successo. Sapete, la più grande storia mai raccontata ci parla di una vita fatta di visione e non di sogni. Punto numero uno. La più grande storia mai raccontata non si scrive inseguendo i propri sogni, ma perseguendo la visione che Dio ha per te. entrare con il nostro tassello e scrivere ed essere parte di questa più grande storia mai raccontata, non lo potremo mai fare inseguendo i nostri sogni. Lo abbiamo anche cantato. Il tuo amore è più grande di ogni sogno che ho. E me lo sono ricordato mentre lo cantavo. La più grande storia mai scritta, mai raccontata, si scrive perseguendo la visione che Dio ha per te. Sapete, Paolo aveva il sogno, l'apostolo Paolo aveva il sogno di diventare il più grande fariseo di tutti i farisei, ed è per questo che è uscito a perseguitare la Chiesa, e li uccideva, li incatenava, li imprigionava, ma ad una certa è stato folgorato. Dio stesso lo ha folgorato con una visione diversa, una visione dove ad Anania Gesù stesso dice che il Signore avrebbe mostrato a Paolo tutte le cose che avrebbe dovuto soffrire per lui. Caspiterina, che bel piano. Non vedo l'ora anche io di iniziare a vivere per questa visione, così vivrò tutte le sofferenze che Gesù ha preparato per me. Ci picchia. Wow. Il verso 9 l'abbiamo letto. Paolo ha servito il Signore con ogni umiltà e con lacrime, tra le prove venutemi dalle insidie dei giudei. Sapete, ognuno di noi ha un sogno. E molto spesso, quando noi ci avviciniamo a Gesù, è perché qualcosa dentro di noi è rotta. E così è stato per me. Io avevo 21 anni, ho deciso di venire in chiesa, ho deciso che avevo bisogno di Dio. All'apparenza ero fantastico. Non mi mancava nulla, ero sempre sorridente, ero l'anima della festa, ero super gioioso, ma ogni sera, quando appoggiavo la mia testa sul mio cuscino, odiavo me stesso, odiavo la mia vita, odiavo quello che facevo, non mi sentivo amato, non mi sentivo cercato, non mi sentivo che nessuno mi capiva, mi sentivo piccolo, solo e brutto come Calimero. E sai, quando ti senti così, lo diciamo anche in barese, no? Quando nessuno te pegge, almeno Cristo te pegge, giusto? Per chi ci segue da oltreoceano, quando nessuno ti prende, Gesù ti prende. E quindi ho detto, ok, Gesù mi prenderà. Però avevo un sogno, e il mio sogno era ricreare quella famiglia che io avevo vissuto quando ero bambino, con i miei genitori. Volevo una moglie che mi amava così com'ero, e questo era il mio sogno, incontrarla, essere amato da lei, avere dei figli, essere, costruire una famiglia. E ho iniziato il mio percorso con Gesù. Passato un anno, passati 2 anni, 3 anni, 4 anni, 5 anni, avrò capito qualche cosa, questo sogno si potrà realizzare, no? Sapete che cosa dovevo realizzare? Che il mio scegliere per Gesù non era fare di lui l'adempimento dei miei sogni, ma era fare di me l'adempimento della visione che lui aveva attraverso di me. E mi è servito stare solo per tanti anni, perché era la sua visione che io dovevo afferrare. Quando quello... Poi sono andato in Australia, ho detto, beh, almeno dall'altra parte del mondo una cecata uscirà da qualche parte. E quindi 7 anni più 1 in Australia, 7 anni più 2 in Australia. Posso continuare, eh? Lo so che sembro giovane. 7 anni più 4 in Australia. Quando quello per cui hai scelto Gesù non arriva, forse devi scoprire il motivo per cui Gesù ti ha scelto. Perché forse quello deve arrivare prima. Quando quello per cui tu pensi di aver scelto Gesù non arriva, devi scoprire forse il motivo per cui lui ha scelto te. Perché forse quello deve arrivare prima. E in Giovanni 15, nel Vangelo di Giovanni, Gesù lo dice: non siete voi che avete scelto me, sono io che ho scelto voi. Non siete voi che a un certo punto vi ritrovate in questo piano di salvezza perché siete bravi, perché da dire 10 parolacce al giorno, ora ne dite 5, da rubare le gioiellerie, ora rubate solo le caramelle nel negozio. Non è questo. Non è questo. Non vi trovate qui perché voi avete scelto me. Sono io che vi ho scelto e sono venuto. Per questo l'Apostolo Paolo dice tante volte in tante lettere in Filippesi che lui prosegue il cammino per cercare di afferrare il motivo per cui sono stato afferrato. Cioè Paolo voleva inseguire il suo sogno e ad una certa è stato folgorato e Dio gli ha detto: questa è la visione della tua vita e ti afferro. E Paolo ha detto: io spenderò la mia vita per capire perché lui mi ha voluto afferrare, per vivere quella visione che lui ha per me. Come si fa? Questa è la domanda. Come si fa a vivere per la visione che lui ha preparato per te? Punto numero 2. La più grande storia mai raccontata ci parla di una vita disposta a perdere e non a trattenere. Ci parla di una vita disposta a perdere e non a trattenere. Lasciò la sua corona, lasciò il suo trono. Gesù non si è aggrappato gelosamente al suo essere Dio e stare lì in cielo e guardarci dall'alto. Ha perso tutto questo. E ha perso la sua vita venendo qui. E lo dice anche Paolo nel verso 24, scrivendo, parlando agli anziani di Efeso, dicendo: non faccio nessun conto della mia vita come se mi fosse preziosa, pur di condurre a termine con gioia la mia corsa e il servizio affidatomi dal Signore Gesù. Non Gesù la risposta ai tuoi problemi e alle tue circostanze, ma la tua vita spesa per la sua missione. Questo permette alla nostra storia di essere trasformata, fratelli e sorelle, amici e amiche. Se Gesù lo releghiamo ai sogni che vogliamo e che lui non ci dà perché è cattivo, e quindi io sono stato 12 anni per trovare una bellissima moglie, non una ceccata, che io volevo. Se noi non facciamo di Gesù quello che deve rispondere ai nostri sogni, se noi non facciamo di Gesù quello che non può ricevere tutto della nostra vita, noi non riusciremo mai ad entrare a far parte di questa storia straordinaria e avremo una vita miserabile. E tante persone che credono a Gesù hanno una vita miserabile. Non ci sto nascondendo nulla. Si svegliano la mattina e non hanno un senso la loro vita. Quando un senso c'è. Forse dobbiamo perdere qualcosa. La cosa che a volte condividevo con gli uomini al ritiro lo scorso fine settimana, cioè è così difficile perdere qualcosa che ci fa stare male, alla fine. Abbiamo tante verità che Gesù ci dà. È così difficile veramente, sarò onesto con voi, è così difficile non guardare quel video porno sul telefonino, che pensiamo che possa darci soddisfazione e invece ci lascia più insoddisfatti di prima, perché siamo brutti e non saremo mai come quello che abbiamo visto e non lo potremo mai vivere. E che lo facciamo a fare? È così difficile abbracciare il bello che Gesù ha per me. È così difficile perdonare quella persona e far crescere dentro di me quel risentimento, quell'amarezza che quando la vedo, modu, sta bene, è tutto così, e ce lo teniamo. È così facile vivere tutto questo dentro di noi. Mi chiedo, è così bello tenerci tutto questo dentro piuttosto che perderlo, piuttosto che lasciarlo andare? Perché Gesù ci ha perdonato. E lui ci ha perdonato di qualcosa di molto più grave. E noi possiamo essere resi capaci di perdonare chi ci ha fatto del male. È veramente così difficile? Io mi chiedo, lo chiedo a me. Lo chiedo a noi. Sapete, Gesù lo ha detto in Marco, al capitolo 8. Ha chiamato la folla e ha detto: ok, voi volete venire dietro a me? Ma vi dico io come dovete fare. Chiunque vuole venire dietro a me deve rinunciare a se stesso, deve prendere la sua croce e mi deve seguire. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per amore mio e dell'Evangelo la salverà e la guadagnerà. Che giova all'uomo se guadagna il mondo intero e perde la sua anima? Che cosa possiamo dare al posto della nostra anima quando il nostro corpo sarà morto? Niente. Eppure Gesù è venuto per darci una speranza vera, reale, non le chiacchiere, per darci una vita eterna. Dobbiamo perdere la nostra vita se vogliamo che la nostra storia scriva un tassello di una storia molto più grande. Punto numero 3. La più grande storia mai raccontata ci parla di una vita fatta di noi e non di ego. E per ego intendo il nostro io, il nostro egoismo, il nostro essere concentrati su noi stessi, il nostro cantarcela e suonarcela da soli, perché siamo bravi e siamo belli. È alla Chiesa che è stata affidata la missione. È alla Chiesa che è stata affidata quella missione. Erano mentre erano tutti riuniti insieme che lo Spirito Santo è sceso e li ha riempiti. Ti sta chiamando perché c'è un noi. Sta chiamando te in funzione di un noi. E io, sapete qual è la cosa che tante volte mi rende triste? E vedere che tante volte noi facciamo di Gesù, lo mettiamo in una piccola scatola, lo facciamo diventare il nostro Dio delle nostre cose e non ci importa niente. Né della sua visione che ha per noi, né del fatto che dobbiamo perdere la nostra vita, né del fatto che c'è una Chiesa della quale noi siamo parte, con la quale noi dobbiamo portare avanti la sua missione. È in funzione del fatto che lo Spirito Santo ha deciso di riempire la Chiesa che la storia della mia vita può entrare a far parte di una storia più grande. È nel valore della comunità che si esprime la mia chiamata per la sua missione. È nel valore di questo che si esprime la tua chiamata per la sua missione. Se non ci fosse questo e fossimo da soli degli eremiti, ma che missione stiamo portando avanti? A chi glielo stiamo a dire che Gesù è morto ed è risorto per loro? Alle pietre? Anche le pietre ascolterebbero, perché Gesù vuole redimere tutta la creazione, ma questa è un'altra storia. È la Chiesa che le porte dell'Hades non potranno sconfiggere. È la Chiesa che le porte dell'Hades non potranno sconfiggere. E sapete, non ci sarà pandemia, non ci sarà distanziamento sociale che potrà mai distruggere la Chiesa, perché dove due o tre sono riuniti, lì, dice Gesù, sarò io in mezzo a loro. La mia domanda a te è: tu dove sarai? Sarai dove due o tre sono riuniti? Vivrai la comunità di dove due o tre sono riuniti o no? Sapete, tante volte noi ci avviciniamo a Gesù perché siamo delusi dalle relazioni che abbiamo vissuto nella nostra vita. È vero? Perché siamo arrabbiati? Perché non riusciamo a perdonare? Perché qualcuno ci ha ferito? E tante volte è proprio le relazioni più strette che ci feriscono e che ci fanno male e che ci deludono. E quindi poi veniamo in chiesa e tutti sorridono, tutti sono splendenti, tutti ci accolgono e quindi pensiamo che questa è una famiglia perfetta, che qui finalmente tutti mi ameranno e tutti mi diranno quanto sono bravo, quanto sono bello e quanto sono fantastico. poi quella è la fase della luna di miele, come quando ti fidanzi con qualcuno, no? Poi dopo un po' inizi a dormire insieme quando ti sposi con tuo marito e scopri che è russa. E lì vorresti dargli un tuzzo. E non sei proprio più felice di quel giorno che hai detto di sì. E così succede per noi con la Chiesa. Sono stato malato con la febbre e il pastore, che è il capro espiatorio di tutti, non mi ha neanche telefonato. Io non dico che mi doveva venire a portare la parmigiana, perché figurati, però almeno una preghiera per farmi guarire, che lo teniamo a fare? E non vediamo più. È vero, ma che cosa sono queste cose? Sono pensieri che Gesù ci dà? O sono il risultato del nostro non aver perso la nostra vita, tenercela stretta? Sapete, servire Gesù forse è la chiamata più solitaria che tu possa mai abbracciare nella tua vita. E io lo so che forse noi ci aspettiamo, prendo l'esempio, che il pastore sia nelle nostre vite, ma forse lui si sente più solo di me e di te, perché vive una responsabilità più grande di me e di te. E forse è lui che ha bisogno che noi lo chiamiamo per dirgli: ehi, come stai? Non tu ad essere chiamato. Reale, vi sto dicendo cose vere, non cose finte. Perché se giochi da solista, rimani solista e rimani solo. Ma se fai squadra, obbligati a fare squadra. Obbligati a fare squadra. Innumerevoli le volte in cui io mi sono sentito solo e non capito, neanche dal pastore, che mi deve capire sempre. Ma chi mi capisce? Perché sono qua? Perché servo Gesù? Perché ho detto di sì alla sua missione? Perché qualcuno mi doveva dire quanto sei bravo e quanto sei bello e vieni che mo ti accarezzo io? O perché io ho incontrato il Dio vivente che è morto ed è risorto per me, ha trasformato la mia vita e mi ha portato in una dimensione diversa da quella che io avevo? Perché? È lì che viene fuori la visione. Da dentro di te esce. Alziamoci in piedi. Sapete, la Chiesa ha la risposta, perché nella Chiesa lo Spirito Santo si muove e scende. E la più grande storia mai raccontata parte da una visione che ci porta in azione per generare una rivoluzione. E se noi rimaniamo con i nostri problemi, e se noi rimaniamo nel nostro piccolo angolino, dove diciamo io speriamo che me la cavo, non andremo mai da nessuna parte. Devi scoprire il motivo per cui Gesù ti ha scelto. Questa è la mia sfida per te. Perché Gesù ti ha scelto? Tu lo sai, questa è la visione che lui ti vuole dare. E sapete, lui mi aveva scelto per qualcosa di molto più grande che avere una moglie e fare dei figli. Io dovevo capirlo, dovevo scoprirlo, dovevo provarlo sulla mia pelle, nelle cose belle, nelle cose difficili, nelle cose brutte. Perché sennò quel sogno che io avevo, forse lo avrei infranto. E forse lo avrei rotto, perché non sarei stato in grado di mantenerlo, perché non avrei perso tutto quello che dovevo perdere per afferrare quello che lui mi voleva far afferrare. Devi entrare in azione forse questa mattina, sia qui che a Mottola. Devi entrare in azione per perdere la tua vita, perché forse non l'hai proprio persa. Ce l'hai ancora un po' stretta. Forse devi decidere di entrare a far parte di una rivoluzione. che è più grande di te. Forse devi decidere di vivere la Chiesa pagando il prezzo. Sai, la nostra Chiesa non sarà mai perfetta perché ci sei tu. Anzi, a maggior ragione, se tu ci sei e fai rigettato, sarà ancora meno perfetto. Questo lo dico a me stesso. Ma una cosa io so, che mai i lupi rapaci hanno potuto dividere la nostra Chiesa, sia sotto la guida del pastore Pinuccio di Sofia, sia sotto la guida del pastore Mirko e Giorgia. Mai i lupi rapaci sono potuti entrare. E mai entreranno. Perché c'è umiltà, perché c'è sofferenza, perché c'è sacrificio, e insieme lo facciamo. E non è sempre facile, ma è glorioso, perché ci porta a scrivere una storia mai raccontata. Mentre teniamo i nostri occhi chiusi, voglio pregare con noi e per noi questa mattina. Sai, prima ho raccontato che avevo 21 anni quando sono entrato in chiesa per la prima volta, e quel giorno qualcuno mi ha detto dal microfono: vuoi perdere la tua vita per seguire Gesù? E quel giorno io ho detto di sì. E io non volevo che nessuno mi vedesse. Volevo rimanere nel mio angolo piccolo e stare solo con Gesù. E io voglio dare a te oggi questa possibilità. Perché Gesù ti ama. Perché Gesù ti ha scelto. Perché Gesù sapeva che c'era un appuntamento fissato con te. E al di là del motivo per cui tu sei qui, o sei a Mottola nella sala, o sei da casa e ci stai guardando, qualsiasi sia il motivo che tu hai pensato per cui sei qui, Gesù ti stava aspettando. Quindi mentre abbiamo gli occhi chiusi, tutti quanti, perché io non voglio mettere in imbarazzo nessuno, non riguarda le persone intorno a te, riguarda te e Gesù. Se tu sei qui oggi e dici: io voglio Gesù, voglio arrendere la mia vita a Lui, io ti invito ad alzare la tua mano così io posso vederti e pregare con te insieme per vivere questa scelta. Grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie. Tante mani si stanno alzando. Grazie. Gesù ti vede. Gesù ti ha sempre visto, anche quando pensavi che Lui non ti vedeva. Quello che faremo adesso è pregare insieme. E se tu hai alzato la tua mano o non l'hai alzata, però vuoi pregare questa preghiera, con la tua voce è specificatamente per te. Quindi io lo dirò e poi tutta la Chiesa lo ripeterà e tu lo ripeterai con noi. Signore Gesù, grazie perché sei morto e risorto per me. Grazie perché mi ami. Grazie perché mi dai una nuova vita. Io oggi scelgo di seguire te e accetto il tuo perdono e il tuo sacrificio per me. Ti amo, Gesù. Amen. Amen. Amen. Nella Bibbia c'è scritto che ora gli angeli stanno facendo festa, perché anche se un solo peccatore si ravvede, rispetto a 99 giusti c'è ancora più gioia, ed è una vera gioia. Adoriamo Gesù con questo cuore, stiamo alla sua presenza, facciamo la nostra scelta di abbracciare la visione che Lui ha per noi, di perdere la nostra vita, di decidere di vivere la Chiesa. Sì? In tuo